Grazie, ciao a tutti, grazie mille dell'ospitalità, sono molto onorato di essere qua, è la terza volta che parlo di Funky Tomato, a parte beh, alcune piccole esperienze con dei ragazzi adolescenti nella cittadina dove vivo, che mi hanno seguito sin dall'inizio. Io vengo da... Allora, l'esperienza, ovviamente, Funky Tomato si parla di Basilicata. Io vengo da, come si sente dall'accento, dall'Emilia. Abito tra Bologna e Ferrara, in una piccola cittadina tra Bologna e Ferrara. Come mai? Che cosa è successo? E come mai la Basilicata? Quello che è successo che io ho conosciuto, parlo della mia esperienza, no? Perché è anche bello vedere come le cose si intrecciano in maniera molto casuale, particolare. Io ho fondato un gruppo d'acquisto solidale insieme ad altri miei amici e come molti gruppi d'acquisto solidale prendiamo le arance. E le arance le abbiamo prese per degli anni da SOS Rosarno, non so se conoscete. E in uno di questi momenti in cui si distribuiscono le arance da SOS Rosarno, conosco una persona della mia età, un ragazzo, Mimmo, originario di Venosa. Venosa è un paese, un bellissimo borgo della Basilicata verso il Foggiano, al confine con la Puglia, quindi, è un sociologo. E lui è da veramente molto tempo che si occupa di i problemi dell'immigrazione in generale e per anche un legame con la sua terra, problemi del caporalato e del bracciantato in agricoltura. Io vengo da un'esperienza, io sono perito agrario, ho lavorato in una cooperativa agricola e io seguivo il pomodoro da industria nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, per una cooperativa e vari soci. Quando gli dico parliamo un po', eccetera, insomma, del più e del meno, io lavoro sul pomodoro da industria, mi si sono illuminati gli occhi. Io dopo un anno di un po' di traversie, capire che cosa fare, cosa non fare della mia vita, gli telefono e sono andato giù perché lui ha organizzato già da diversi anni insieme ad altre persone, la maggior parte insomma lucani, che però vivono, studiano, lavorano a Bologna, a Roma, comunque non dalla Basilicata, anche i ragazzi, no? Si muovono e scappano, insomma. E ha fondato una scuola di italiano che è all'interno, forse faccio vedere magari qualche foto particolare in maniera tale da seguire un po' un filologico, così si capisce meglio la storia. Da qui, esatto. Parte, sì, ok. Ah, si è aperto con quello, aspetta un attimo qua. Facciamo andare avanti. Allora, questa è la zona. Venosa, Palazzo San Gervasio, Montemilone, Boreano e Lavello sono le zone di produzione del pomodoro principali, poi un po' si produce anche verso Matera, del pomodoro in Basilicata, che sono al confine con il Foggiano, che invece è la zona di maggiore produzione, no? lì si parla di, in tutti questi comuni, circa 1 migliaio di ettari di pomodoro, insomma, tutto sommato è poco rispetto alle decine di migliaia che invece ci sono nel Foggiano. Ecco, la scuola di italiano. Questo è il luogo della scuola di italiano. Questa è la chiesa di un villaggio che si chiama Boreano, che non è abitato se non durante il periodo da luglio fino a settembre i braccianti che provengono per lo più dal Burkina Faso, in quella zona lì, che raccolgono il pomodoro d'industria che c'è nel circondario intorno. E questo è un borgo della riforma agraria, costruito più o meno negli anni, appena finita la seconda guerra mondiale, negli anni 50, e non è, la chiesa non è mai stata neanche consacrata, perché in realtà con la riforma agraria davano i vari pezzi di terreno, ma in realtà le persone di quelle zone lì sono immigrate al nord. Ci sono altri borghi nelle vicinanze che hanno avuto una storia solo in parte migliore, nel senso che un po' sono stati abitati, però in generale le zone della riforma agraria sono così, tanto vero che poi ci sono delle zone dove ci sono i vari casolari, anche lì ci sono i casolari sono fatiscenti e sono abitati solamente da i braccianti africani che lavorano sul pomodoro d'industria, dispersi nelle campagne. In questo caso siamo a circa 8 km dal centro di Venosa, come forse voi sapete, nel sud Italia, in quelle zone lì, poi in maniera particolare in Puglia, in Basilicata, tra un paese e l'altro ci sono 20-30 km di nulla, con nessun servizio. E questo è diventato un luogo di una scuola di italiano serale per i ragazzi che abitano intorno. Quindi è molto simbolico, insomma, l'immagine dà bene l'idea, perché poi dentro è semidistrutta la chiesa, ma abbiamo scelto di farlo lì. Questo è il borgo. Oltre il borgo, in fondo, dopo ci sono tutti i casolari, e questa è la scuola italiano, con volontari che vengono da tutta Italia. E questi sono i casolari dispersi in mezzo alla campagna, dove vivono i ragazzi. Di fianco c'è un gruppo di macerie, lì probabilmente c'è un casolare che è stato abbattuto. E i casolari sono stati abbattuti, quelli di Boreano li ha abbattuti il comune nell'ultimo anno, proprio per evitare che ci andassero i braccianti, perché c'era diciamo per una questione di ordine pubblico, poi in realtà senza dargli alternative, perché con la paga che prendono non possono affittare un posto a Venosa, e in più fanno anche fatica a trovare a Venosa, nel senso che veramente non sono ben voluti. E quindi si arrangiano, adesso non mi ricordo se la foto dopo si vede, no? Si arrangiano, sulla foto non c'è una foto, ma hanno abbattuto i casolari, e i ragazzi africani hanno costruito le strutture in legno coperte con della plastica al loro posto, perché in pratica non è cambiato in peggio, tra virgolette, perché i casolari ovviamente sono molto fatiscenti. E il Gran Ghetto, che forse è il più grande ghetto, insomma, che sta a Rignano Garganico, è fatto praticamente soltanto in queste strutture in legno con cui dopo teli di plastica e senza nessun servizio, tantomeno servizi di, ad esempio, di nettezza urbana. Quindi i ragazzi non hanno la macchina, hanno soltanto i piedi, la maggior parte, in alcuni casi, di biciclette, e quindi non sanno come portare via i rifiuti. Tanto per citare un spunti, insomma, che fa abbastanza, che connota abbastanza, insomma, la situazione, il posto, quando uno ci va, insomma, le condizioni in cui vivono sono veramente, dicono molti ragazzi, peggiori di quello che loro vivevano. Anche perché consideriamo che la maggior parte di questi ragazzi, dopo poi faccio vedere un video dove si capisce molto bene, vengono dal nord Italia, mentre negli anni 90, fino agli anni 90, insomma, fino all'inizio della crisi, poi effettivamente si trattava anche di molte persone che erano arrivate dall'Africa e si trovavano in condizione anche di clandestinità e si trovavano quindi a fare quel lavoro lì. Adesso la maggior parte, si parla dell'80%, sono persone che hanno il permesso di soggiorno per vari motivi, la maggior parte dei casi sono permessi di soggiorno regolari perché lavoravano, e si sono trovate senza lavoro perché le hanno licenziati da industrie del nord. Molti parlano, ci sono ragazzi che parlano quasi tutto vicentino, ad esempio, no? O bresciano, modenese, e in alcuni casi sono anche ragazzi che studiano e che vanno giù a raccogliere il pomodoro perché i genitori andavano a raccogliere il pomodoro giù e i genitori li mandano giù per fare questa esperienza. Queste sono, era sempre la scuola italiana, dove poi la scuola italiana diventava anche un laboratorio politico. A partire dalla scuola italiana noi abbiamo fatto manifestazione a Potenza sotto il consiglio regionale. I ragazzi hanno iniziato a rivendicare, quindi a fare attività politica. Sono alcuni ragazzi, soprattutto i più giovani, che sono molto motivati in questo. E poi dopo arriviamo a Funky Tomato. Quindi cosa è successo? Ci siamo trovati io, perito agrario, un sociologo, un ragazzo che fa parte del movimento Genuino Clandestino e ha iniziato un lavoro di promozione dei prodotti locali e ha fondato una piccola società e poi un ragazzo che fa sempre parte di questa società Ponti di Archimede, che poi leggerete, che ha diciamo nella veste, diciamo così, la struttura che ci siamo dati, la società Ponte di Archimede, quella che fa la commercializzazione del prodotto, è un ragazzo che, poi vedrete, farò vedere un video, ha montato dei video, diciamo che ha questa competenza, poi una ragazza che è diventata la coordinatrice, che veramente cambia come coordinatrice, perché poi da giù coordina un progetto di una organizzazione non governativa che si chiama Medici per i Diritti Umani e il progetto è quello di un camper che si muove tra i casolari dando assistenza sanitaria, ma loro hanno fatto qualcosa di più, vi invito poi a vedere, non l'ho portato, ecco, potevo portarlo. Vi invito a vedere comunque su internet perché lo si trova scaricabile. Loro hanno usato questi contatti che loro avevano per le questioni sanitarie per poi fare un'inchiesta. Allora, hanno preso tutti i dati, hanno intervistato i ragazzi. L'intervista si basava su sei in regola o in nero, sotto caporalato o no, quanto prende all'ora, quanto lavori, e quindi hanno tutti i dati che ad esempio vi dicevo prima, no? Chi ha il permesso di soggiorno, quanto vengono pagati, eccetera, eccetera, tutte cose che in qualche modo non c'era nessuna inchiesta che sì, la Fly CGL in particolare, che a Foggia è molto attiva, no? Aveva sì delle cose, no? Però non aveva dei dati abbastanza strutturati. Giulia, che poi è diventata anche la coordinatrice di Funky Tomato, ha fatto questo lavoro insieme ai suoi collaboratori. Allora, perché? Giovanni, un gasista che si è occupato di molto dei contatti con i gas e tutta la parte di commercializzazione, ed eravamo noi. Eravamo noi all'inizio tutti italiani, perché poi la difficoltà poi di far partire un progetto di questo tipo è riuscire anche a trovare i contatti, no, con i braccianti. Noi ce li avevamo attraverso la scuola italiana, però finita la stagione dei pomodori i ragazzi vanno ad esempio a Rosarno e poi dopo si spostano ancora, quindi in realtà noi fino a luglio non avevamo ancora chi andare a assumere, no? Con il nostro progetto. Il nostro progetto aveva come scopo quello di dare una paga regolare, teniamoci, abbiamo usato la paga base del contratto provinciale, quindi non è una grande paga, però insomma comunque tutto in regola, no? Con una bella busta paga, no? Cosa che loro non avevano quasi mai visto, insomma, perlomeno giù al sud a fare quel lavoro lì. Perché abbiamo deciso di fare questo progetto noi, che Giulia veneziana, io bolognese, altri un abruzzese, un foggiano, poi beh, ho dimenticato ovviamente Gervaso, che è la persona che ha fatto la coltivazione in campo, che è un'altra persona veramente molto importante. Lui è il fondatore di Osservatorio Migranti Basilicata, che è un'associazione molto molto attiva praticamente dallo sportello per gli immigrati in vari comuni in quella zona lì, fino a lavoro di, direi, di lobby, insomma, nei confronti della regione, insomma, con dei lavori continuativi sul posto, perché lui è sul posto, su quelle che sono tutte queste problematiche. E beh, essenzialmente noi ci siamo resi conto con le manifestazioni a Potenza, con quelle che manifestazione venosa, con un lavoro di sensibilizzazione, di cercare di trovare delle soluzioni anche a dei problemi che via via venivano fuori, siamo accorti che d'intorno non avevamo ascolto, anzi, poche parole, ci prendevano anche in giro, tanto per citare una grossa presa in giro, è quella delle leggi che sono state fatte delle leggi negli ultimi due anni, sia in Puglia sia in Basilicata, contro il caporalato. E in Basilicata questo è diventato un po' da parte della regione Basilicata un per loro, diciamo, un po' fiore all'occhiello, in realtà, che nasconde dietro un'ipocrisia molto grossa. La legge dice in pratica questo, che ci sono delle liste di prenotazione nei centri per l'impiego, a queste liste di prenotazione accedono le aziende agricole. Le aziende agricole che accedono a queste liste di prenotazione hanno la possibilità di avere una sorta, si chiama un bollino etico. Questo bollino etico ha dato la possibilità a queste aziende agricole di non essere controllate. In realtà, allora, le liste di prenotazione sono andate molto bene, nel senso che veramente molti braccianti si sono iscritti alle liste di prenotazione. Ma perché? Perché praticamente sono stati quasi costretti, nel senso che sono stati fatti poi dei centri di accoglienza e sia i sindacati, il comune, eccetera, hanno fatto una grossa promozione nei confronti di questo sistema. In realtà quello che è successo è che le aziende agricole iscrivevano loro i braccianti in base a quello che gli dicevano i caporali. I caporali controllano veramente il mercato. Lo controllano perché l'intermediazione è ancora essenziale in quel tipo di lavoro in campagna, perché raccogliere pomodoro vuol dire avere delle squadre molto importanti che si muovono in pochissimo tempo nelle varie aziende agricole, e questo lo può fare soltanto un lavoro di quel tipo. Non bisogna nascondersi dietro a diciamo la critica al caporalato, bisogna capire che il caporalato è un'esigenza, perlomeno l'intermediazione, un certo tipo di lavoro è una esigenza da parte delle aziende agricole. A questo bisogna rispondere con realismo, cercando di formare delle filiere sane, insomma. Ed è quello che noi abbiamo voluto fare con Funky Tomato, un progetto piccolissimo, anche perché insomma non avevamo più forza. Avevamo più forza perché partivamo soltanto 2000 metri quadrati che aveva Gervasi. E poi eravamo noi, insomma, che avevamo, e poi anche il laboratorio, l'artigianalità che abbiamo messo era, non potevo ovviamente raggiungere dei grossi quantitativi. Abbiamo già fatto credo molto, insomma. Il progetto quindi si è sviluppato partendo da questi 2000 metri quadrati, poi abbiamo aggiunto altri 1000 metri quadrati a San Ferdinando di Puglia, più lontano, insomma, disponibile anche questo terreno. Abbiamo detto, beh, insomma, se succede qualcosa che non va a Palazzo San Gervasio, abbiamo comunque anche l'altro terreno, e così è stato, insomma. Questo è il campo di, quello prima era il campo di Palazzo San Gervasio, questo è il campo di San Ferdinando di Puglia. Questa è una cosa particolare. Beh, adesso qua arriviamo al laboratorio di trasformazione. Abbiamo voluto fare le cose non in genuino clandestino, insomma, ma invece in regola. Quindi siamo andati in un laboratorio a norma, non molto vicino, insomma, vicino a Potenza, quindi lontano da Palazzo San Gervasio, ma in una realtà di un agriturismo che aveva già un laboratorio, in una realtà che ha sposato il nostro, abbiamo noleggiato il laboratorio, ha sposato il nostro progetto. E a Cancellara, Potenza, Cancellara, un paese arroccato su un cucuzzolo, fuori dal tempo ancora, e queste sono le nonne che ci venivano a dare i consigli su come fare la passata. e questa è stata la scena in cui loro ci dicevano: non attentate mai più a mettere insieme un progetto del genere, siete matti, cioè ci ho proprio detto questo, perché noi arrivavamo a fare fino a, siamo arrivati a fare fino a 7 quintali e mezzo al giorno in maniera artigianale, cioè noi non avevamo un pastorizzatore moderno, avevamo i bidoni, come viene fatto in pratica in quel periodo. Poi dopo a Cancellare sentivano profumi di pomodoro dappertutto, nel senso che tutti quanti si fanno la passata in casa. E questo è il laboratorio. Questo è il primo giorno. Campo dei pomodori. Ovviamente in ogni momento interrompetemi e fatemi pure delle domande, perché sto dicendo tante cose, ma ce ne sono tante da dire, ma sto un po' seguendo le immagini. Quindi noi abbiamo dato, siamo molto orgogliosi di questo, lavoro a tre ragazzi africani, Mamadou, che è quello sulla vostra sinistra, senegalese, lui è stato mediatore culturale con Medici per i Diritti Umani, ha lavorato con SOS Rosarno, Mamadou Gurgunyao, anche detto uomo libero, nel senso che praticamente ha fatto una stagione tra le arance e i pomodori e poi ha detto basta. E ha sempre lavorato attraverso organizzazioni governative, in progetti di genere, in progetti matti, a SOS Rosarno, eccetera. Poi lui è Giovanni, gasista, Walim e Yacouba sono del Burkina Faso. Lui viene da Vicenza, Walim, e invece lui è da Napoli. Adesso Yacouba ha trovato un lavoro a Palazzo San Gervasio come meccanico in una ditta che fa macchine agricole. E poi Jet svedese, è un personaggio che praticamente ha fatto il volontario per gran parte del tempo, un woofer in pratica. Non so se sapete cos'è il woofer. Un'associazione in cui si fanno esperienze in agricoltura, in famiglie, aziende agricole, realtà che vivono un'esperienza di vita particolare, che praticamente con vitto alloggio si fanno queste esperienze. Ecco, questo è quello che poi è successo quest'anno ancora sulla scuola italiana, quindi ritorniamo alla scuola italiana, perché noi sì, avevamo Funky Tomato, ma allo stesso tempo c'era anche la scuola d'italiano che continuava. Da Bologna è venuta una compagnia teatrale, i Cantieri Meticci, e hanno fatto un'esperienza con i ragazzi, e questa è una foto di questa esperienza, e poi ci sono altre foto della nostra trasformazione. Ecco, il progetto è un'altra cosa molto particolare che abbiamo voluto sin dall'inizio, dovevamo sostenere il progetto. Noi abbiamo fatto un business plan all'inizio, abbiamo considerato i nostri 3.000 metri quadrati, abbiamo considerato quanto potevamo produrre di pomodoro, le varie trasformazioni che potevamo fare, fatto un po' tutti i calcoli, abbiamo fatto un vero e proprio business plan, anche se sono 3.000 metri quadrati, insomma, e abbiamo raggiunto quindi una quota che abbiamo diviso per le bottiglie che avremmo raggiunto secondo i nostri piani, e abbiamo fatto un ragionamento quindi di preacquisto. Siamo andati in giro a promuovere il nostro progetto e molte persone si sono fidate di noi anche senza assaggiare prima il prodotto, ed è stata una grande soddisfazione. Questo progetto l'abbiamo promosso attraverso anche una filiera non solo culturale ma anche culturale, e da lì viene il nome Funky Tomato, e abbiamo fatto due Funky Tour. Quanti le immagini del Funky Tour non ci sono, forse no, in pratica un carretto della società Ponte di Archimede che ha girato per l'Italia. Il secondo giro è stato soltanto nel sud Italia, ma nel primo giro siamo arrivati anche a Venezia, a Padova, a Bologna, e abbiamo fatto musica e cucina insieme, musica ovviamente del funky, e abbiamo registrato anche dei pezzi, perché poi molti musicisti si sono affezionati al progetto, e quindi avevamo una traccia base, e su questa traccia base molti musicisti quindi hanno suonato, e tutte queste cose qui con le musiche, con i video in cui c'è sempre la musica, è possibile vederle dal sito Funky, perché l'idea è, il funky vuol dire sporco, meticcio, no? incrociato, no? Quindi l'idea che questi che noi insieme a questi ragazzi ci siamo abbiamo costruito qualcosa che che va a mettere insieme, no, tante cose diverse, no, della nostra cultura, della loro, no? Poi la loro è molto complessa, quando senti le loro storie, senti delle cose moderne, no? Il fatto che quando ad esempio si raccoglieva il pomodoro, loro hanno fatto sia la parte di trasformazione, sia la raccolta del pomodoro, poi anche in parte anche dei lavori agricoli, quindi della zappettatura, loro ascoltano della musica ad esempio rap, delle altre cose del genere, però in mezzo poi ascoltano anche degli imam, sono musulmani, quindi mettono insieme tutte queste cose qui, no? E vivono in Italia, però parlano tante lingue diverse, perché in Burkina Faso ci sono tante lingue diverse come in tutti i paesi dell'Africa, e allo stesso tempo parlano anche il vicentino, no? Ad esempio, no? Quindi c'è questa e vengono giù nel sud Italia, no? A fare questo lavoro, e quindi l'idea che in qualche modo loro abbiano una ricchezza da darci, no? Questo è venuto molto fuori, a parte il fatto che molti sono anche hanno anche studiato, insomma, e quindi la nostra idea era quella di far venire fuori questa ricchezza, no? Questa foto si vede. Ok, foto sono finite. Io farei vedere il video, così vi rendete conto del... Allora, visto che in realtà ho già detto tutto, forse il video migliore potrebbe essere quello... perché la conclusione dice tutte le cose che ho già detto, quelle che poi trovate sulle brochure, è molto bella, però c'è il laboratorio dove c'è un po' di presentazione delle persone, però ve l'ho già un po' presentata io, manca Anita, che non c'era una foto, che è la figlia dei proprietari dell'agriturismo, per una questione di... lei intanto è una disoccupata, ha un figlio piccolo, e l'idea è che in qualche modo lei potesse essere la persona all'interno del laboratorio che facesse la tramite tra l'agriturismo e le persone che ci lavoravano, no? Quindi l'abbiamo assunta, e ci sembrava giusto assumere anche un italiano, no? E io allora forse farei vedere la raccolta, sono tutti più o meno belli, insomma, così vi rendete conto un po' della filiera culturale della musica. Ci siamo chiedati abbiamo raccontato il progetto bene, anche ci siamo chiariti su tutto quanto, come raccontato, era tutto molto bene, siamo tutti contenti, alla grande. È tutto pronto, e vedi quanto ci siamo, ma noi stiamo chiedendo molto bene a Paola Cancellara e Mari Quinto, va bene? No, non è semplicemente ci paghiamo i giornali, noi ci guadagniamo, è una storia tanto se tua chi me vedi che c'è la lumière de ta vie, se tua chi me vedi che la ciel sarà toujours bleu, ma tua ti è parti en oubliant tout ce qu'on se te dit, e tua ti è parti en disant che tu te défini, tu le bonheur en garde maintenant, je vois que le ciel est toujours bleu. La mer n'a pas changé de couleur, la vie n'a pas beaucoup changé. Tout le bonheur en garde maintenant, je vois que le ciel est toujours bleu. La mer n'a pas changé de couleur, la vie n'a pas beaucoup changé. C'est toi qui m'avais dit que j'étais la lumière de ta vie. C'est toi qui m'avais dit que le ciel serait toujours bleu. E tu ti è parti en disant che tu t'è fini. Tu le bonheur garde maintenant, je vois que le ciel est toujours bleu. La mer n'a pas changé de couleur, la vie n'a pas beaucoup changé. Tu le bonheur garde maintenant, je vois que le ciel est toujours bleu. La mer n'a pas changé de couleur, la vie n'a pas beaucoup changé. Le bonheur en garde maintenant, je vois que le ciel est toujours bleu. La mer n'a pas changé de couleur, la vie n'a pas beaucoup changé. C'è un gruppo di persone che piano con fatica, però sta cercando di dimostrare che qui, dove Aureano raccolgono come le bestie a 10 ore al giorno e vivono in quelle condizioni, cerchiamo con le nostre poche forze di fare una cosa diversa. Però con i soldi, cioè facendo economia, non solidarietà o volontariato. Sono delle cose della vita vissute, insomma, un po' particolare, che così ha voluto Giordano fare in questa maniera un po' particolare. E probabilmente uscirà un disco, un CD, un insieme della musica che noi abbiamo raccolto, insomma. Tra l'altro, già da anni in zona a Venosa viene fatto ogni fine agosto una serata di musica con gli africani, e con ovviamente Venusino, insomma, è stato un buon modo per presentare l'attività del gruppo Fuori dal Ghetto, che fa attività nelle scuole. Quest'anno la cosa è stata veramente incredibile, perché c'è stata una serata a Venosa, ma c'è stata una serata anche fatta proprio nel ghetto di Boreano e una serata fatta al Gran Ghetto di Rignano Garganico, con un ospite di eccezione, Sandro Joyeux. Non so se l'avete mai sentito parlare, però è un ragazzo franco-italiano che innamorato della musica africana, in particolare maliana. Lui ha passato molto tempo nel Mali e ha imparato le lingue loro, in particolare Bissarà, e fa quel tipo di musica lì, e quindi quando i ragazzi africani sentono una persona che gli parla e gli canta in Bissarà, che è una lingua che praticamente è quasi una è un dialetto, è una lingua, un dialetto che è quasi come l'inglese da noi in quella zona lì dell'Africa occidentale. Un po' tutti lo comprendono, lo parlano, e le persone diventano veramente, loro sono estremamente contenti. Anche in questa, no? In questa cosa si deve passare, quindi anche nella musica, anche nella cultura deve passare il fatto di sentirsi fratelli, il fatto di fare un qualcosa insieme, no? Importante. E questo è quanto, insomma. Senti, ora penso che sia il momento di farti tante domande, perché sicuramente con tutte le cose che ci hai raccontato di domande ne abbiamo da fare tante. Quindi volevo dirvi se qualcuno ha già qualcosa da domandare. Io un po' di domande ce le ho, ma cominciamo. Parla pavese doc, sarebbe contento anche di ascoltare qualcuno di un altro paese che parla la sua lingua, o anche solo qualche italiano che continua la tradizione del posto. Cioè, non è provocatorio, è solo una curiosità. Sì, come ti dicevo prima, ad esempio Walim, c'è in un video che lui si presenta e dice: sono di Burkina Faso e sono vicentino, e quando dice vicentino lo dice con un accento vicentino. Quindi sì, lui praticamente no, non è nato qua, però è arrivato qua che era giovanissimo, insomma. Questo capita, insomma, quando tu vai nel ghetto trovi persone che vengono da tutte le parti d'Italia, insomma. Certo, è veramente molto sconfortante, insomma, vedere delle persone che si sono ormai anche integrate, invece recluse all'interno di posti del genere, insomma. Quindi la situazione è... In campagna vengono trattati come degli animali, pure lo sappiamo, insomma, ci sono stati anche morti, no, quest'anno. Perché allora la situazione forse la conoscete, però il caporalato funziona all'incirca, perché capire la situazione è molto complessa, però i ragazzi vengono pagati a cottimo 3,50 euro al cassone, il cassone è da 3 quintali. In realtà l'azienda agricola non paga 3,50 euro, l'azienda agricola ne paga 5-6, ma nei momenti in cui, ad esempio, piove e le macchine da raccolta, perché qualche macchina da raccolta c'è, non riescono ad entrare nei campi, i caporali tirano sul prezzo, arrivano anche a essere pagati la raccolta anche sugli 8-9 euro al quintale e al cassone. Da chi vengono pagati? Dalle aziende agricole. L'azienda agricola paga il caporale, poi il caporale paga, poi c'è tutto un lavoro gerarchico di capi bianchi, capi neri. Nella zona di Palazzo San Gervaso praticamente c'è una sola persona che controlla tutto il caporalato della zona. Facendo un po' di conti, ha all'incirca 1,5-2 euro al cassone che gira nel giro di questo sistema mafioso. Ci sono qualcosa come, soltanto lì con un migliaio di ettari, ci sono qualcosa come 2 milioni di euro che girano attraverso il caporalato. È per questo che non si riesce a sconfiggere, è per questo che probabilmente ci sono anche degli interessi a livello politico, perché c'è tutto uno sfruttamento, no, di questa cosa, che porta a dei guadagni a poche persone. Dopo esistono in questa gerarchia, poi gli africani si sono in qualche modo adattati per sopravvivere e di conseguenza poi tra di loro poi si sfruttano, nel senso che poi c'è il ragazzo che è un po' più sveglio, che riesce a prendere la patente, che magari trova un furgone scassato e lui fa il caponero, quello che porta i ragazzi in campo e che si prende una piccola percentuale, mezzo euro per cassone. Però ovviamente la cosa è messa in piedi da di sopra. Dopo, nella mia esperienza, io l'ho andato giù perché non capivo come potesse essere una cosa del genere, perché io vengo da un'esperienza di 9 anni in una cooperativa agricola in Emilia, ma in tutto il nord Italia il pomodoro viene raccolto con le macchine e non c'è più dalla fine degli anni 80, sono iniziato a usare le macchine, diciamo da metà degli anni 90 non ci sono, a parte quel piccolo campetto dell'agricoltore che lo fa, che vende i pomodori a casa, ma non viene più raccolto a mano da noi. E le agricole si sono probabilmente lì andate nel sud in un circolo vizioso in cui la manodopera a basso prezzo li ha portati verso una arretratezza anche, no? Che da cui non riescono a venire fuori, ma non riescono a venire fuori in una maniera che è incredibile, perché fate conto che sono due dati così economici, appunto l'azienda agricola paga intorno ai 6 euro al cassone, da 3 quintali, quindi viene 2 euro al quintale. Nel nord Italia la raccolta macchina viene pagata mediamente 1,7 euro, 1,8 euro al quintale da contoterzisti. Il contoterzisti gli dice che ha una macchina da raccolta e viene a raccogliere. Cioè, la cosa assurda a cui sono arrivati è che la raccolta in nero, cottimo col caporalato, viene uguale, se non di più, alla raccolta macchina, eppure continua a raccogliere in quella maniera lì, anche perché ci sono degli interessi da parte degli industriali che probabilmente sono all'interno di quel giro lì. Adesso io non ho le prove, adesso sto dicendo delle cose su cui non ho le prove, però molti agricoltori della zona mi hanno raccontato che se tu raccogli a macchina molto spesso ti rimandano dietro il camion, eppure la raccolta a macchina ti rimandano indietro il camion se tu raccogli a macchina. Adesso noi abbiamo messo su un progetto che voleva essere contadino, dove si valorizzava al massimo il lavoro umano. E ovviamente quando sono andato giù, anche il trapianto l'abbiamo fatto mano, ho pensato, ma abbiamo una trapiantatrice, insomma. Per me le macchine sono in realtà dovrebbero essere anche in parte uno strumento di liberazione, insomma. Va bene, ma questo è un mio pensiero. Noi abbiamo voluto fare questo progetto, ovviamente non possiamo pensare che Funky Tomato e un processo del tipo di quello che abbiamo fatto possa essere estendibile a qualcosa come 30.000 ettari di pomodoro, no? Che ci sono giù nel sud Italia, in cui dietro c'è tutta una filiera industriale. Però mi domando, e ci domandiamo, insomma, come mai ci sia questo tipo di filiera con questo tipo di sfruttamento. E il discorso sta all'interno di un discorso mafioso, all'interno di un discorso di poche persone che vogliono controllare il territorio e delle masse di braccianti, insomma. E questo bisogna spezzarlo rendendo trasparente quello che ci sta dietro. Quindi vi invito ovviamente a comprare Solidale Italiano, comprare Funky Tomato, ma anche a cercare di studiare, di vedere che cosa c'è dietro alle marche che trovate nei supermercati. Come si fa a conoscere? Una bella domanda, bisognerebbe lavorarci. C'è vi invito a vedere un bel sito internet che si chiama Filiera Sporca. Stanno lavorando, continuando un po' le inchieste anche sulla scorta di quello che aveva fatto Medici per i diritti umani, però niente Medici per i diritti umani si è fermata l'inchiesta su quello che sono le condizioni di lavoro dei braccianti, ha iniziato a fare delle inchieste su quella che è tutta la filiera, cioè su chi c'è dietro il caporalato, chi c'è dietro i commercianti, chi c'è dietro agli industriali, eccetera. Questo l'hanno fatto, Filiera Sporca ha lavorato in questo senso con numeri e nomi sulla piana di Rosano per gli agrumi. Invito a vederlo, quello sarebbe la cosa da fare, cioè iniziare a rendere trasparenti, no, i meccanismi che ci sono, con anche le implicazioni della grande distribuzione organizzata. Questo è molto importante, perché SOS Rosano, cito una loro campagna, aveva invitato la COP a presentare un prezzo trasparente delle arance e dei mandarini, così come noi abbiamo fatto la nostra etichetta, in cui noi abbiamo scritto esattamente quant'è del prezzo che voi pagate della nostra passata, quello che è andato nella parte di lavoro, cioè le buste paga, nella parte di produzione, cioè tutta la parte di lavorazione macchinaria, eccetera, parte trasporto, amministrazione, e non hanno risposto. È questo che bisognerebbe chiedere, no? per iniziare a... basterebbe veramente poco, basterebbe un prezzo trasparente, far capire che dietro quelle arance, dietro quei mandarini, dietro quei pomodori, dietro quella passata, ci sono persone sfruttate, no? Questo non viene detto. Ma da quanti anni va, da quanto tempo va avanti il progetto? Quanti pomodori, quante volte avete fatto i pomodori? No. Non sappiamo cosa sarà. Ci siamo un po' dispersi, anche perché ognuno ha altri progetti, eccetera, eccetera, ci dovremmo rincontrare a Natale un po' tardi. Però l'idea potrebbe essere questa. Noi da quei 3.000 metri quadrati lì abbiamo raccolto meno pomodori di quanto pensavamo. A un certo punto ci ha preso il ragnetto rosso con il caldo che c'è stato e non siamo riusciti a tenerlo a freno. E quindi abbiamo prodotto circa 100 quintali di pomodoro, da raccogliere molti di più, e che sono diventati circa 10.000 vasi. E in realtà noi ne abbiamo prodotti circa 15.000, gli altri 50 quintali li abbiamo acquistati da dei produttori biologici che abbiamo conosciuto. A un certo punto, trovandosi in quella condizione, siamo andati in giro e abbiamo messo in rete, in azione tutti i nostri contatti e abbiamo trovato degli agricoltori. E questi agricoltori lucani sono rimasti entusiasti, hanno visto la filiera, hanno visto la filiera culturale, hanno visto la musica, hanno visto quest'idea, hanno visto delle opportunità, e questo potrebbe essere il futuro, nel senso che noi abbiamo visto che seguire la produzione e la trasformazione è veramente molto complessa. In qualche modo abbiamo creato un marchio e quindi l'idea potrebbe essere quella che abbiamo diversi punti di produzione e trasformazione che seguono dei protocolli, insomma, che ci potremo dare di eticità nel lavoro, e tra l'altra cosa questa azienda agricola già lavora in questa maniera e quindi fare una sorta di rete di produttori agricoli biologici che lavorano in una certa maniera e che assumono dei ragazzi così come noi abbiamo fatto quest'anno. Però il nostro potrebbe diventare più un lavoro di promozione, commercializzazione, filiera culturale, quindi continuare a fare della musica per promuovere la cosa e per dare anche spazio, respiro, no? Queste aziende agricole biologiche per un nuovo tipo di prodotto, no? Questo potrebbe essere il futuro. Poi no, appena, insomma, dobbiamo discuterne ancora. Quando viene raccolto a macchina alcuni camion vengono rinviati indietro per una presunta minore qualità del prodotto del raccolto a macchina, o per quale motivo? No, perché c'è degli interessi raccolto, vi dico una cosa proprio da tecnico, le macchine da raccolta oggi raccolgono meglio degli uomini, sul serio. Tanto è vero che poi la raccolta a mano che si fa, adesso noi abbiamo raccolto pomodoro per pomodoro, abbiamo fatto 3 stacchi di pomodoro, così come si faceva una volta, insomma, eccetera. Ma normalmente in realtà i cassoni da 3 quintali, i ragazzi lo riempiono strappando le piante e scuotendole dentro il cassone. Esattamente il lavoro che fa la macchina. La macchina lo fa in maniera ancora più pulita, uno perché ti riesce a togliere i verdi, due perché riesce a togliere anche la terra, mentre invece la persona che scuote i pomodori dentro questo non lo riesce a farlo, insomma. Quindi è meglio la raccolta macchina sul pomodoro da industria. Forse sconvolgo un po' le persone, però è un'esperienza diretta, insomma. e quindi non mi spiego perché. Perché non raccolgo la macchina. No, non me lo spiego proprio. Perché si è perso il servizio giusto? Come? Non aveva capito prima come mai vengono rinviati indietro i camion. Io avevo capito che la macchina non avevo capito. Sì, allora, non ho le prove, forse parlo troppo, bisogna, ma molte persone mi raccontano di una miriade di piccole industrie giù nel sud Italia, e molte di queste industrie hanno degli interessi a mantenere le cose come sono, per la cosa che dicevo prima, i 2 milioni di euro che il caporalato fa girare nelle tasche di poche persone. Soltanto in quella zona della Basilicata, se uno considera che nel Foggiano gli ettari sono 20 volte di più, i conti, immaginate come aumentino a dismisura. Ma nel vostro piccolo avete dato un po' fastidio a qualcuno, avete avuto qualche segnale troppo piccolino? Troppo piccolino. 3.000 metri quadrati in confronto di 20.000 ettari, direi, no, non abbiamo dato fastidio a nessuno, no, assolutamente. Quindi, per tornare all'aspetto tecnico, magari sono un po' noioso, però praticamente la pianta, sia la macchina, sia se si vuole fare la svelta per la raccolta, si strappa tutta la pianta e la si scuote per staccare i pomodori. Invece, non c'è una raccolta pomodoro per pomodoro fatta solo 3 volte. Fate conto che allora il pomodoro da industria viene pagato all'incirca intorno ai 7 euro al quintale. Le aziende agricole, per starci dentro, non fanno più quel tipo di raccolta. Il pomodoro da industria è una cultura industriale in tutti i sensi, con raccolta macchina, trapianto macchina, con delle produzioni incredibili. Noi abbiamo fatto 100 quintali in 3.000 metri quadrati, che vuol dire all'incirca 300 quintali ettaro. Produzione ridicola. Un'azienda agricola sarebbe già andata in fallimento con la nostra produzione. Speravamo di fare un po' di più, speravamo di fare 150 appunto quintali ettaro, ma là ovviamente non in biologico, però in convenzionale la media produttiva è intorno ai 700 quintali ettaro, e ci sono aziende che arrivano a farne anche ben più di 1.000 quintali ettaro, quindi insomma un po' si va su delle produzioni di un certo tipo. Noi abbiamo fatto così, insomma, aggancio a discorsi, abbiamo cercato di fare anche un discorso sulle sementi, e quindi tra le varie varietà avevamo anche uno standard, una varietà ibrida, di cui ci siamo tenuti un pochino di seme per l'anno prossimo. In particolare per l'anno prossimo ci siamo riusciti a tenere un po' di seme di varietà locali, abbiamo raccolto un po' di pomodori da contadini, perché poi nel sud Italia è incredibile, noi siamo andati a prendere 50 quintali da 3 agricoltori, di cui uno non si può neanche parlare che fosse un agricoltore, ma una signora che aveva un grande orto in Irpigna e si faceva le sue varietà locali e si faceva ancora vendeva per, diciamo, raggregare un pochino più di soldini alla fine del mese. Ci sono tantissime realtà del genere nel sud Italia. Io mi sono ritrovato a casa di un agricoltore, di una piccola azienda agricola che mi ha dato il sacchettino dei semi, dei pomodori suoi, dentro la calza maglia, ce l'ho ancora a casa. Sì, in realtà del genere in Basilicata in questi posti c'è ancora molto radicata, no, questa cultura contadina. È una cosa incredibile che andrebbe sicuramente, che insomma, secondo me insomma, è da valorizzare anche all'interno di progetti del genere, visto che noi non possiamo competere ovviamente con altre realtà, insomma, dobbiamo cercare delle situazioni del genere, no? Volevo farti spiegare un po' il prezzo trasparente. Hai detto che quello l'avevate previsto e poi ci siete stati anche bene dentro. Come è andata con? L'idea è stata questa. Allora, noi nel business plan abbiamo messo anche dei nostri compensi, insomma, la consulenza mia, qualcosa per la società Ponte di Archimede, per la coordinatrice, per eccetera eccetera. Poi però abbiamo ragionato questo, dobbiamo cercare di stare sul mercato, insomma, comunque fare un prezzo accessibile. E di conseguenza, quando abbiamo ragionato a come fare i preacquisti, abbiamo deciso di, per la parte del preacquisto, di togliere questa parte qui. E quindi abbiamo fatto uno sconto notevole del 23%, del 23% per i preacquisti. In pratica il preacquisto va a pagare esattamente il lavoro in campagna e il lavoro di trasformazione, niente di quello che noi ci abbiamo messo in tutta la parte di organizzazione. Perché abbiamo detto, questa parte qui non la mettiamo per il progetto, e quindi quello che tireremo su con le vendite dell'altra parte non di preacquisto andrà a fine anno, quando ci incontriamo a Natale, vedremo che cosa ci è rimasto e vedremo che cosa riuscire a dividerci noi. Per noi l'importante è stato riuscire a pagare le quattro persone che ci hanno lavorato, ma ci hanno lavorato proprio fisicamente, insomma, che sono state lì, hanno fatto la passata, i pezzettoni, i pelati, eccetera, eccetera, e poi ovviamente pagare tutte quelle che erano le spese vive, il trasporto, la macchina che abbiamo comprato, abbiamo preso una passatrice semiprofessionale, e il noleggio del laboratorio. Vivevamo là a Cancellara, quindi abbiamo affittato un bugigattolo, insomma, avevamo due stanze, un bagno in cui ci dormivamo tutti quanti, la situazione è questa dal punto di vista economico. E per quello che costa di meno il preacquisto, insomma, abbiamo deciso di donare questa parte. E quindi siamo arrivati al prezzo di... Il volantino, perché sono andato fuori, no? Devo tenere fuori. E quindi siamo arrivati fino a un prezzo di... E poi dopo abbiamo fatto anche un discorso sulle quantità acquistate, insomma, per invogliare, anche perché siamo andati molto... Noi abbiamo venduto. La nostra idea è stata molto quella di vendere a ristorazione. Quindi siamo andati a ristoranti, pizzerie. E lì abbiamo venduto anche dei buoni quantitativi, e per invogliare abbiamo appunto abbassato il prezzo ulteriormente. Poi ovviamente siamo andati con i gruppi di acquisto solidale, ma il gruppo di acquisto solidale è venuto in maniera così molto senza stare troppo a cercare, ma non siamo andati a cercarli, perché abbiamo sempre pensato che i gruppi di acquisto solidale, nella maggior parte dei casi, avevano già il loro contatto per la passata, per i prodotti a base di pomodoro, e spesso anche locali, no? Con dei produttori locali, e quindi andarci a presentare nel confronto avremmo messo un po' in difficoltà i gruppi di acquisto solidale. Quelli che sono venuti, sono venuti. E poi abbiamo venduto a botteghe del commercio consolidale, e poi ci fa molto piacere il fatto che un buon quantitativo di prodotto è andato all'Arimaflo di Milano, che è una, un'esperienza di una fabbrica chiusa, occupata da una parte degli operai che hanno fatto dei progetti all'interno di questa fabbrica, e poi a uno SPRAR di Asti. Lo SPRAR sono i progetti per i richiedenti asilo, e quindi la mensa di questo SPRAR con dei ragazzi extracomunitari stanno dando il pomodoro nostro. E ripensando alle prime immagini che ci hai fatto vedere di quei casolari isolati, mi domandavo, ma hanno l'acqua, hanno possibilità di avere un minimo di vita, oppure è veramente una situazione come ci descrive? Sì, sì, è catastrofica la situazione. L'acqua gliela porta, gliela portava, perché l'ultimo anno invece hanno avuto anche, non hanno avuto l'acqua, gliela portava la Caritas attraverso il comune con dei bidoni, e riempivano dei bidoni che avevano portato vicino ai casolari. E la cosa è cambiata a partire dall'anno scorso. L'anno scorso siamo riusciti a pressare in maniera tale che continuassero a portare l'acqua, ma perché hanno fatto dei centri di accoglienza e hanno usato l'acqua per far sì che i ragazzi andassero via dai casolari e andassero nei centri di accoglienza. Centri di accoglienza che sono tutto fuorché accoglienti, nel senso che sono delle tendopoli in vecchie fabbriche, anche quelli lì fuori dai centri abitati, e molti ragazzi ovviamente ci sono andati anche quest'anno. Tanto c'è il problema che nei centri di accoglienza ci vanno soltanto i regolari, sono la minima parte, però comunque ci sono anche delle ragazze che fanno da mangiare o fanno le prostitute, anche quelle no, soltanto uomini e centri di accoglienza. Poi i centri di accoglienza sono stati gestiti sono stati gestiti in una maniera allora praticamente coprifuoco alle 11 di notte, coprifuoco nel senso che le persone, i ragazzi non potevano rientrare dopo le 11 di notte. Noi non potevamo entrare, avvocati che non sono riusciti ad entrare, una situazione veramente infernale, una cosa incredibile. Noi abbiamo fatto un mucchio di lettere, abbiamo tra le cose Osservatorio Migranti Basilicata era all'interno di quello che era il hanno fatto un gruppo di lavoro per questi centri di accoglienza, e poi sono stati tirati fuori, insomma tutte le cose veramente incredibile dal punto di vista politico. Nei casolari l'acqua quest'anno praticamente ha portato Osservatorio Migranti Basilicata e come poteva, e quindi loro vivono senza acqua, luce e gas. Acqua, luce e gas. Non c'è niente. Niente. Allora i casolari più o meno sono di tre stanze, ci dormono una trentina di persone. Nel ghetto di Boreano c'erano una decina di casolari, adesso poi li hanno abbattuti alcuni, comunque ci sono circa 300 persone. La situazione è veramente indicibile, e non è neanche una questione che di emergenza, come spesso viene messa in quelli che sono ad esempio la stampa locale o come viene affrontata dalla regione Basilicata, che ha fatto una task force apposita eccetera, quindi come se dovesse riuscire a risolvere un'emergenza che dura dagli anni 90. L'emergenza è un'emergenza che dura da 20 anni, sempre uguale tutti gli anni sanno che arrivano e non trovano un posto. alcuni ragazzi, allora ci sono appunto circa 300 ragazzi durante la stagione della raccolta del pomodoro, poi di questi 300 ragazzi una qualche decina rimangono anche in altri periodi dell'anno, perché lì è la zona dell'Aianico del Vulturo, quindi sono molte, c'è tutta la questione legata all'uva, e quindi sia per la potatura, sia per la vendemmia, per altri lavori in campagna, per gli ulivi, e quindi ci sono dei ragazzi che rimangono. Beh, a Natale è nevicato, a Capodanno è nevicato, e ancora 11 ragazze abitavano dentro le baracche senza acqua, luce e gas. E abbiamo dovuto trovare noi un posto. Una grossa mano in paese ce l'ha data facendo dei progetti. Abbiamo comprato un furgone che doveva essere un furgone contro il caporalato. L'idea era quella di formare una cooperativa di bracciantile, dargli in mano il furgone. In realtà non ci siamo riusciti perché la cosa, siamo andati in varie aziende agricole, ma le aziende agricole non li avrebbero presi, perché il caporalato gestisce veramente tutto. Se tu ti vai a offrire il tuo lavoro in un'azienda agricola, al di fuori di quel giro lì, il giorno dopo, quel giro lì va nell'azienda agricola e quindi l'azienda agricola dice di no. Poi l'altro progetto abbiamo comprato delle biciclette in maniera tale che almeno questi ragazzi potessero arrivare nei paesi in maniera autonoma. Abbiamo pressato, abbiamo fatto in maniera tale che una compagnia di un corriere facessero la spola tra il paese e il ghetto, e questo, tutto questo è stato finanziato e ci ha dato una grossa mano alla Chiesa Valdese. E, insomma, sta continuando a fare c'è una Chiesa Valdese molto forte, insomma, Venosa. E quindi le condizioni sono veramente insomma, una cosa, le persone vivono in condizioni disumane, veramente disumane. Ma la situazione del mercato globale, come a Pavia due anni fa avevo presentato quello che si chiama il Dark Web, il Dark Side of Italian Tomato, con questi pomodori italiani che invadono, mi ricordo più se il Ghana o Burkina Faso, produttori locali che falliscono, che spesso finiscono per arrivare poi in Puglia, in Basilicata, in Sicilia. Cioè la situazione è questa, è così, il giro è quello. Io so quello che ho visto anch'io in quel docu inchiesta, insomma, di internazionale, so anch'io quello. Sì, ci sarebbe da fare studi approfonditi su quello che è la filiera del pomodoro. E pensare a una cosa adesso, una cosa che mi ha fatto molto ragionare, sul fatto che insomma andavamo nei supermercati della zona lì, no? E nel supermercato della zona lo spazio dei pomodori era quasi tutto occupato da marchi del nord Italia. Ma come? Guarda, prodotti tanti pomodori e qua trovi del pomodoro che viene dal nord Italia. E quindi, insomma, probabilmente la filiera giù nel sud Italia ha questa caratteristica di sfruttamento, bassi prezzi e poi di un mercato globale che va appunto, non rimane in Italia, va in Africa, va a sfruttare crea un ulteriore sfruttamento, insomma, con un circolo vizioso incredibile. perché non, insomma, non valorizzano le aziende agricole, non valorizzano neanche il loro prodotto e creano sfruttamento su sfruttamento, una cosa, quella cosa lì di internazionale, non so se la conoscete. La storia è quella di un partono dall'intervista a un ragazzo, a un signore che raccoglie pomodoro nel Foggiano ghanese, e questo non mi ricordo come si chiama, la sua storia è che era produttore di pomodoro in Ghana, nel Ghana del Nord. Ma come? C'era una fabbrica, da me la fabbrica ha chiuso perché non sosteneva la concorrenza con il pomodoro italiano che viene prodotto giù nel sud Italia con la manodopera di questo qua che è stato sbattuto fuori dallo stesso pomodoro. È una cosa allucinante. E anche il pomodoro cinese, sì, sì, certo. Il marchio si chiama Gino, sì. Pomodori cinesi, così un brand italiano che fa. Tra l'altro l'Italia sovvenziona anche i marchi italiani, quindi grazie al pomodoro cinese è stato battuto anche dal governo italiano, solo dal. Sì, io, dall'Unione Europea, dalla PAC, certo, certo, certo, assolutamente. E la musica com'è che si inserisce? Cioè, questa filiera culturale parallela come si intreccia con la produzione del pomodoro, la produzione? Beh, in parte, come ti dicevo, c'è stato questo queste serate di musica con i ragazzi africani giù a Venosa, a Negrito di Boreano, nel ghetto di Negrabietto di Regnano Garganico, e quindi c'è questa filiera culturale che si è intrecciata anche con i posti. La filiera culturale è un mezzo che si è intrecciato a partire dalla storia di alcuni di noi che sono musicisti e che hanno voluto dare questo apporto. E si è intrecciata la promozione perché abbiamo girato con un carretto in questo giro. Poi, se volete, vi faccio vedere anche un altro video se voi avete piacere, sono tutti molto brevi, per farvi capire un po', insomma, questa cosa. E sì, essenzialmente sono queste le due cose, no? Diciamo, un interesse, una voglia di fare musica. Ecco, è la questione di voler fare un progetto che va a agire su un problema, però tirando fuori un qualcosa di bello, no? Di qualcosa di gradevole, che faccia anche ballare, che faccia sorridere, che faccia cantare, no? Quindi vedere tutto questo, vedere anche i ragazzi, no? A Boreano le persone, se uno ci va, in realtà sono sorridenti, sono solidari tra di loro, c'è comunque una bella atmosfera anche in una condizione così disumana, insomma, in realtà. Fanno da mangiare insieme, poi si organizzano in una maniera veramente incredibile, ma il Gran Ghetto ci sono i quartieri per zone, no? Quindi da una parte ci sono i ghanesi, dall'altra parte ci sono i nigeriani, eccetera, eccetera. Al centro una baracca è la moschea, poi ci sono i bar e i ristoranti, ma veri e propri, dentro le baracche. E c'è Radio Ghetto, non so se l'avete mai sentito parlare, che è diventato anche quello un punto di aggregazione. C'è una vita, vivono veramente, anche in posti del genere. E quindi era l'idea di far vedere questa vita, anche fatto. Non, troppo lungo? O se avete altre domande, fate altre domande, se è troppo tardi, eh? Se no, se volete, vi faccio vedere un pezzo anche del Funky Tour. Sì, dai. Vedete? Io volevo farti un'altra domanda. Noi siamo venuti a conoscenza di voi attraverso l'articolo su Altra Economia, ma che visibilità il vostro progetto ha avuto fino adesso? È uscito anche da questo, diciamo, mondo un po' speciale, oppure c'è un po' di resistenza alla conoscenza del vostro progetto? Siamo andati persino sulla TV del Vaticano. Gli hanno spiegato, noi siamo un po'. Infatti Paolo, che ci è andato lui, ha detto: ma guarda che siamo un po' comunisti, eh. E l'interesse è stato ampio, merito della comunicazione di Giulia, veramente tanto, la coordinatrice, insomma, che ha usato i suoi canali come organizzazione non governativa per andare a veramente scardinare tante possibilità, quindi sì, molto viaggiato all'interno di questi mondi, perché poi dopo hanno, oltre all'articolo su Altra Economia, c'è stato un articolo su M Terra Nuova, e poi dopo ci sono, comunque siamo finiti anche su la stampa.it, su beh, è venuta una persona internazionale, però non ha fatto un articolo su di noi, insomma, ha fatto un articolo in generale, insomma, sulla situazione giù, e poi beh, su alcune riviste un po' più di settore, insomma, gli asini, altre cose, insomma, particolari, e non so, insomma, quanto siamo conosciuti, però mi sembra che sia da pagina Facebook sia da sito la cosa abbia avuto un bel riscontro, insomma, in generale. Non so risponderti molto esattamente. Stavo pensando perché il prezzo trasparente è proprio uno di quegli obiettivi che il commercio eco ha da tanto tempo, cioè se i consumatori, oltre a voler sapere che non ci sia il glutine, non ci sia troppe calorie, eccetera, volesse sapere con la stessa determinazione la composizione del prezzo, forse le cose cambierebbero. E quindi mi domandavo come poter continuare a proprio insistere su questa importantissima richiesta, che però deve venire dal consumatore, non può essere imposta per legge, deve essere proprio qualcosa che tutti i consumatori si chiedono, oltre alla genuinità del prodotto, oltre al rapporto qualità-prezzo, ma proprio la composizione del prezzo per fare delle scelte consapevoli. Quindi io mi stavo domandando proprio se magari utilizzando un prodotto che ha il prezzo trasparente, che è una novità, partire da quello per dire che si può fare. Non è una cosa che, come d'altra parte all'inizio, anche per certi prodotti, dare l'indicazione precisa della composizione calorica per l'alimento era qualcosa non obbligatorio, ma che è diventato qualcosa che è stato apprezzato, è stato poi richiesto. Quindi io stavo pensando quanto è possibile fare tutti noi proprio come valorizzazione di un'etichetta, grande novità, che ha davvero il prezzo trasparente. Certo, è un'idea che è data a prezzo sorgente, Veronelli, bisogna fare delle campagne, insomma, nei confronti del gruppi d'acquisto solidale, per me, io che vengo un po' da quel mondo lì, ci sono realtà che hanno fatto un bel lavoro su questo, insomma, ci hanno speso e sono riuscite ad arrivare a delle cose, ma poi il problema è arrivare a quelle che sono le grandi filiere e la grande distribuzione organizzata, è lì che bisognerebbe puntare, insomma, con delle campagne di pressione, andando davanti ai supermercati, no? Forse sarebbero fuori molte magagne.